Oggi facciamo un viaggio nel passato. Vago dentro la mia testa, back in the days, e non c'è cosa che non rifarei. Tra mille momenti, quanti ne rivivrei quando a questa musica davo ancora delle. Quando ancora avevo la paranoia dei miei momenti in cui vuoi scappare da quello che sei. E per quanto sono stanco che è passato tanto tempo, già mi bastava un pezzo ed ero in mezzo agli dei. Quando non c'era Spit, ma c'era il To The Beat insieme a Danno e Moddy. Enzi era già il king, ma non c'erano le gabbie, soltanto il ring, quindi prendi guanti e combatti oppure via da qui. Quando tutte le rime erano improvvisate e tormento lo pagavano per fare le serate. Ma anche oggi nel presente, ogni volta che scazzo, rap e messaggeri, sulla base mi rilasso. Era il 2007, solo pochi scrausi, mentre la TV mandava in giro applausi. Lato tu non c'era, era vera la scena, nelle cuffie in giro, coi fratelli bandiera. E con quel CD abbiamo fatto qualche danno, è passato qualche anno, ma sempre in affanno. Io faccio le prime rime, a mio fratello c'è zampando, mentre gremavamo cime, in vero stile funk. Io mi sentivo qualcuno a scrivere sul muro ed era zona nostra, la Pineta nella costa. Già molti pensieri e molto incazzato, non ci avrete mai scritto contro uno stato mentale che ancora non riesco a superare, ma incabbiato e mi ha condannato a rappare. Ringrazio questo infame per il favore, per la vita, la passione ed ogni fottuta canzone. Non vivo una routine, faccio quello che mi piace. Scrivo un pezzo rap perché mi reputo capace di entrare nelle persone con le mie parole, in mezzo a ragazzine che vogliono vestire Versace. Ed è proprio per questo che me ne sbatto del successo, con un pubblico che spesso non capisce proprio un cazzo. Mi sentirei depresso a farlo per i soldi o sesso. Lancio una frecciatina e con una rima vi ammazzo. Ora che avete capito chi dovete ascoltare, il vostro artista preferito si deve inchinare. La senti questa base come suona da paura, malato di sta roba e non esiste cura. Zero rispetto per la gente che crede di essere superiore a me. Vogliono fare bloma in tasca al mar caffè. Non sei Johnny Depp, lascia perdere. Lascia perdere. Timess.